che mi son caduto nell'amorosa pania. Principessa Dorina, chi è costei? Quante fiamme in un pis superni dei? Non vi son servitori in questo loco? Eccone un grande grosso per servirla. Prendi questo mantello, o uom da poco. Avrò io questo onore. E non vorrei che vi fosse qualche onore. Entrate pur sicura. Tanto delicata che vi a morir più volte per gli onori. Ohimè, il mio cor ferito. La padrona dov'è? Verrà tra poco. Si fa troppo aspettare in questo luogo. E non si porta almeno il cioccolato? Non so che moda sia. La sua fame maggiore della mia. Quando viene la padrona, io son stanco di questa indiscretezza. Non si tratta così coi cavalieri. Adesso andrò ben io. Mio signor, dove va? Dove che voglio. Adesso non si può, abbia pazienza. Levati, mascalzon, che impertinenza.